Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Orlando spiccava ora sul giallo d'un leopardo araldico. Viso più candido e più scuro non si sarebbe potuto immaginare. Felice la madre che portò in seno un essere tale, e più felice ancora il biografo che ne tramanderà la vita. Con queste parole inizia la biografia più delicata, sentita e amorevole che sia mai stata dedicata all'oggetto della propria passione da parte di uno scrittore. Dietro al protagonista del romanzo, che nasce uomo nel periodo elisabettiano e 200 anni più tardi diventa donna con grande naturalezza e con altrettanta naturalezza viene accettata e amata nell'Inghilterra vittoriana, si nasconde e al tempo stesso si rivela in ogni sua pagina, nella sostanza fatta di carne, pensiero e animo, una donna. Un'aristocratica che ha saputo scatenare l'amore in maniera incondizionata e completa in chi la ritrae con la penna, meritandosi un'opera giudicata fra le più perfette, fra quelle compiute dall'autore, a sua volta una persona ancor più straordinaria e che scopriremo più avanti. Il romanzo in questione si chiama Orlando e la donna che l'ha ispirato si chiama Vita Sackville-West. Vita Sackville-West. Al solo vederlo, Orlando appariva predestinato a una simile carriera. Una peluria come di pesca velava l'incarnato delle guance, sul labbro appena un poco più accentuata che sulle gote. Vita era in effetti una donna che meritava un ritratto particolareggiato. In realtà ne esistono molti di quelli veri fatti da dei pittori. Il primo, del 1910, la ritrae nei vestiti edoardiani dell'epoca. Una camicia bianca dal collo alto fin sotto il mento, su cui spicca una collana rossa. In testa un ampio cappello. Vita non ha ancora 18 anni e il suo sguardo è quasi triste. Gli occhi dalle pesanti palpebre mostrano una gravità che non dovrebbe esistere a quell'età. I suoi occhi pari a viole inumidite, grandi come se l'acqua che le impregna ancor le dilatasse, e la fronte ricurva come superba cupola marmorea tra i due medaglioni puliti delle tempie. Con il viso leggermente imbronciato, Vita nel ritratto appare quasi un giovane maschio aristocratico, una caratteristica che, come vedremo, diventerà il perno attorno al quale ruota la sua biografia romanzata. Comunque il quadro, nonostante fosse del rinomato pittore ungherese Philippe de Laszlo, amato ritrattista di tutte le teste coronate del periodo, non piacque mai a Vita, che lo relegò in soffitta. Perfetta si tendeva la curva del naso, quale freccia in rapido e sicuro volo. Brune erano le chiome, piccole le orecchie e aderenti al capo. Il labbro era breve e leggermente rialzato sui denti d'una squisita bianchezza di mandorla. Vita nasce il 9 marzo 1892 a Nohl. Prima e unica figlia di una famiglia che aderisce alla legge salica, vincolando i propri beni agli eredi maschi, sa che non sarà mai la padrona di casa sua, che andrà in eredità a qualche distante cugino. Un dolore che segna tutta la sua vita, come ricorda ancora molti anni dopo la rinuncia formale alla proprietà di Nohl. Quando firmai, sentii il mio cuore quasi spezzarsi. Mettere la mia firma sotto quel documento che reputavo un tradimento verso tutte le tradizioni dei miei avi e della casa che avevo amato. Nohl, la casa paterna, la gioia, la bellezza, tutto quello che si può desiderare sembra profuso a piene mani in questo castello quattrocentesco, circondato da un parco enorme dove daini e cervi pascolano tranquillamente e dove Vita passeggiava per ore creando storie magnifiche nella sua mente. Orlando nutriva una naturale inclinazione per i luoghi solitari e i vasti orizzonti. Tra felci e biancospini, mettendo in fuga il suo passare daini e uccelli selvatici, aveva camminato piuttosto velocemente fino a una radura coronata da una solitaria quercia. E quante delle quasi 400 stanze Vita ha esplorato nella sua infanzia, passando dai saloni immensi fino ai più piccoli stanzini dove solitaria bambina, senza altri amici se non la sua fantasia, gioca a nascondersi, sperando che qualcuno, almeno una tata, voglia trovare il tempo per cercarla. Non la madre, di certo, la bellissima Victoria, donna arida ed egocentrica che ha contribuito a creare un perenne senso di inadeguatezza nella sua unica figlia, offrendole un affetto mutevole e inaffidabile. Per evitare qualsiasi forma di competizione con lei, che ama circondarsi di adoratori, Vita inizia a sopprimere in se stessa qualsiasi forma di femminilità, quella stessa femminilità che la priva anche di ottenere Noel alla morte del padre. Essere donna nell'Inghilterra tardo-vittoriana non è una fortuna, neanche per la figlia di uno degli aristocratici più ricchi e nobili del regno. Orlando se ne stava eretto nella sua franca nudità, mai creatura umana da che mondo e mondo era apparsa più affascinante. Le sue forme univano il vigore di un uomo alla grazia di una donna. Per vita spogliata del suo diritto alla casa paterna e all'amore della madre, l'unica soluzione è quella di cercare la libertà attraverso l'eccentricità, le turbolenze, i repentini cambi d'umore, la passionalità unita a un intenso desiderio di solitudine. L'unico futuro all'altezza delle tradizioni della famiglia è quello di compiere grandi imprese che nel suo caso possono solo essere letterarie. Orlando era un aristocratico malato d'amore per la letteratura. Darebbe fin l'ultimo quattrino, tanto maligno è quel germe, pur di scrivere un libretto che gli desse fama. Ma in attesa della fama, per vita, si apre la stagione dell'amore. Una stagione che si manterrà indistinta per tutta la sua vita, divisa fra passione e amicizia fraterna, fra appartenenza e bisogno di libertà. Attratta fisicamente e passionalmente dalle donne, Vita conosce e sposa nel 1913 un giovane diplomatico, Harold Nicholson, figlio cadetto del barone di Carnock, diplomatico a sua volta. Era allegro e intelligente e amavo il suo ingegno e la sua giovinezza e mi lusingava il fatto che avesse simpatia per me. Venne spesso a No quell'autunno e inverno e la gente iniziò a dirmi che era innamorato di me e, nonostante sapessi che non lo era, desideravo crederlo. Non ero innamorata di lui allora, c'era Rosmund, ma tra tutti gli altri lui era quello che mi piaceva di più come amico e compagno di giochi, così come per il suo cervello e il suo carattere delizioso. Rosamund e Rosamund Grosvenor, amica e amante di Vita. Una fotografia del 1913 ritrae le due donne che camminano a braccetto, vicine, complici. Al lato di Vita, ma un po' discosto, c'è Harold in tight e con il cilindro in testa. Due passi avanti a tutti c'è il padre di Vita, Lord Lionel Sackville West. Gli occhi acciaio dietro la stessa palpebra pesante che la figlia ha ereditato e che sembra regalare uno sguardo indifferente e acuto al tempo stesso. Ma nonostante tutto, Harold Nicholson, l'uomo che Vita decide di sposare, è davvero un uomo intelligente di carattere facile e comprensivo. Soprattutto riguardo agli amori di Vita. Bisessuale a sua volta, Nicholson riesce a instaurare con sua moglie una relazione che permetterà a entrambi non solo di poter soddisfare le loro curiosità sessuali, ma soprattutto di diventare l'un per l'altra veri compagni di vita sempre presenti in ogni momento difficile e importante della loro esistenza. Non sembrava sbagliato essere fidanzata con Harold e al tempo stesso così tanto innamorata di Rosmund. La relazione tra me e lui era così nuova, così intellettuale e in una maniera così poco fisica che non ho mai pensato a lui sotto questo aspetto. Alcuni sono nati per essere amanti, altri mariti, ed egli appartiene a quest'ultima categoria. E amante Harold proprio non lo è, se dobbiamo dare ascolto anche alle parole del figlio Nigel, scrittore a sua volta e biografo dei genitori con il libro Ritratto di un matrimonio. Ebbe una serie di relazioni con uomini che erano intellettualmente suoi pari, ma l'elemento fisico era stato molto secondario. Non è mai stato un amante appassionato. Per lui il sesso era incidentale e piacevole, come una rapida visita a una galleria d'arte prima di andare in stazione. Eppure, grazie allo sforzo di entrambi, questa coppia così inusitata è riuscita a creare un matrimonio durato più di 50 anni, fondato, se non sulla fedeltà sessuale, sicuramente su una fedeltà intellettuale e un affetto profondo e sincero che risulta negli anni un porto sicuro per ognuno di loro durante le avversità della vita. E la prova più evidente è stampata nelle pagine di Ritratto di un matrimonio, un libro pieno di grazia e intelligenza. Se Harold significa stabilità per vita, la Murfu restano le donne. La prima è Rosamund, con la quale la relazione diventa sin troppo scontata. È piuttosto noiosa. Ma in fondo non vogliono tutti una persona sottomessa nella propria vita? Lei è la mia. Quando si lasciano, Vita scrive: strano quanto poco mi sia dispiaciuta la sua partenza. Ma non ha personalità, ecco perché. La storia più importante per Vita in quel periodo è quella con Violet Trefusis. E questa volta nulla della personalità di Violet sembra essere né noioso né opaco. Al contrario. Tutto scompariva di fronte alla straordinaria seduzione che l'intera persona irradiava. Le immagini, le metafore più ardite e stravaganti si intrecciarono, si tessero nella mente di Orlando vedendola. In men di 3 secondi l'ebbe battezzata di melone, pigna, ulivo, smeraldo e volpe tra la neve. In Orlando l'incontro fra il protagonista e la principessa russa Sasha descrive bene la passione profonda che nel corso degli anni lega Vita a Violet. Amiche fin dalla più tenera età, a 14 anni Violet confessa per la prima volta il suo amore e dona un anello a Vita. Separate per qualche anno, quando si rincontrano, Vita sta per sposare Harold e nonostante Violet le rinnovi il suo amore, si lega con una cerimonia fastosa tenuta a Knoll al suo comprensivo diplomatico. Ma dopo 4 anni di onesta vita matrimoniale e la nascita di 2 figli, la relazione fra le due donne si rinfocola. Fuggono una prima volta in Francia, da dove la madre di Violet le costringe a ritornare per far sposare la figlia. Poi di nuovo per 2 mesi, fin quando il marito di Violet va a riprendersi la moglie in Costa Azzurra. La fuga finale avviene nel febbraio del 1920 e questa volta c'è Harold insieme a Dennis Trefusis. In un aereo biposto i due uomini atterrano vicino ad Amiens. Over your head and just roll with it until it's all good, yeah. Deep water, a little deeper than you thought. Feel it going over the edge and just go with it until it's all good, yeah. La scena madre vuole che Harold, questa volta, decida di essere marito fino in fondo. Di fronte a una vita sconvolta, che non sa più cosa scegliere fra la libertà della passione e la sicurezza affettiva, le fa capire che a tutto c'è un limite e se decide di restare con Violet sarà il divorzio. Di fronte alla reale sofferenza di Harold e al pensiero dei figli, Vita cede. Eppure proprio suo figlio Nigel, anni dopo nel suo libro, commenta con estrema sensibilità e comprensione la passione della madre. Ora che so tutto questo, l'amo ancora di più, come l'amò mio padre. Perché era caduta in tentazione, perché fu debole. Era un ribelle, era Julian. E sebbene non lo sapesse, ha combattuto ancor più di Violet. Ha lottato per il diritto di amare uomini e donne, rifiutando le convenzioni che il matrimonio esige verso l'amore esclusivo, in cui le donne dovrebbero amare solo gli uomini e gli uomini solo le donne. Per questo è stata disposta a rinunciare a tutto. Sì, è stata una follia, come poi disse, ma una follia magnifica. Forse è stata crudele, ma è stata una crudeltà su scala eroica. Come posso disprezzare la violenza di tanta passione? Julian è l'alter ego maschile che Vita ha inventato per sé. Prima ancora della nascita del libro Orlando, anche lei pensa a se stessa come un uomo. Una scelta che ostenta anche in società, quando si presenta alle cene importanti vestita con i pantaloni di velluto che le fasciano le lunghe gambe slanciate, gli stivali e con un corpetto stretto in Vita. Il volto è severo e ribelle al tempo stesso, con la pelle olivastra ereditata dalla nonna Pepita, una ballerina spagnola, i capelli corvini. Julian è nella sua immaginazione l'essere prediletto, colui che avrebbe potuto ereditare Knoll, colui che avrebbe potuto avere tutto, colui che avrebbe potuto vivere la sua vita fino in fondo, senza mentire, senza piegarsi alle convenzioni, senza maschere. Julian è tutto quello che Vita non riesce a essere fino in fondo, sfrontato, coraggioso, battagliero. Ma Vita sa anche che il suo lato femminile esiste e ha una parte importante nella sua esistenza. Il suo essere madre di Nigel e di Ben, l'amante delle rose e dei giardini, la donna che spesso sostituisce i fantasmi della sua fantasia a una realtà disturbante. E nel rispetto di quest'altra parte di sé, piega il capo e cede quando sa che la nave delle sue emozioni la sta portando troppo lontano dal porto sicuro rappresentato da Harold e dalla sua famiglia. Eppure, un altro incontro, anche questo femminile, sta per accadere. Ma fra tutti quelli che le sono capitati, questo è il più ricco di tutti, il più virtuoso, quello che la scaverà più a fondo e le insegnerà più di tutti. Alla cena che si tiene a casa di Clive Bell sono invitati un gruppo eterogeneo di scrittori, pittori ed economisti. Fra questi anche Vita e Harold Nicholson. Al tavolo c'è una donna che osserva Vita. Lo sguardo è distante e apparentemente disinteressato, ma capace di cogliere le cose essenziali. È una nobile aristocratica di nome Vita Sackville-West, figlia di Lord Sackville, figlia di Noel, moglie di Harold Nicholson e scrittrice. Ma la cosa che merita davvero considerazione, se posso essere prosaica, sono le sue gambe. Oh, sono stupende. Si slanciano come esili colonne verso il tronco, piatto come quello di un corazziere. Eppure ha due figli. Ma tutto in lei è virginale, selvaggio, patrizio. Forse è una descrizione prosaica, ma scritta con mano sicura da una grande scrittrice, la stessa che anni dopo ci regala fra i tanti capolavori il romanzo di Orlando, considerato alla stregua di una lunga dichiarazione d'amore indirizzata a Vita Sackville-West. Il suo nome è Virginia Woolf. Virginia Woolf. Destini incrociati. Hey, I'm so pleased to say you guys are go. We're gonna lead you off. We're gonna lead you off with a samba, okay? So just bang your toe drops together and we're gonna give the drummers a minute, a whole minute to get us together. Appena sotto Hyde Park, nel quartiere di Kensington, in una viuzza tranquilla chiamata Hyde Park Gate, al numero 22, non tutti avrebbero apprezzato il mitico concerto che i Rolling Stones diedero nel 1969 nel grande parco poco distante la loro casa. Soprattutto, un'altra e sottile ragazza con una preoccupante facilità al crollo nervoso. Le lontanissime voci che a volte si affollano dentro la sua testa sono molto più rock di qualsiasi canzone di Jagger e Richards e le fanno paura. Sympathy for the Devil avrebbe aggiunto solo rumore in più al caos della sua mente, mentre invece è di ordine che ha bisogno. Di una vita sana, disciplinata, di pasti regolari e dell'amore della sua famiglia. E per fortuna il rischio che le note dei Rolling Stones vengano a turbare la quiete dell'alta e stretta palazzina bianca alla fine dell'Ottocento è abbastanza scarso. È in questa bella casa bianca, non molto distante dal Victoria and Albert Museum, che nasce il 25 gennaio 1882, Adeline Virginia Stephen. Molti anni dopo, quando la casa di Kensington sarà solo un ricordo, e Virginia si trasferisce a vivere vicino a un altro museo, il British, nel quartiere di Bloomsbury, la vita e il genio la rendono il centro di uno dei circoli letterari più importanti del mondo anglosassone, la scrittrice inglese più importante dell'epoca moderna, Virginia Woolf. Virginia è una bambina fin dall'inizio diversa. Impara a parlare molto tardi, non prima dei 3 anni. Nella nursery, però, la sua presenza silenziosa ha comunque il suo peso. Terza di 4 fratelli, Virginia, nel suo imperioso mutismo, sa farsi valere. Reclama a gran voce la colazione sbattendo il cucchiaio sul tavolo e non si sottrae ai giochi, anche se possono diventare molto violenti. Crea alleanze con la sorella Vanessa, la sua amata Nessa, maggiore di 3 anni, e un amore misto a insofferenza per i 2 fratelli, Toby, il più grande, bello e sfrontato, e Adrian, l'ultimo arrivato, il piagnucoloso. La signorina Virginia, 2 anni e mezzo, graffia suo fratello, 4 anni. Chiedo e infine ottengo una scusa e un bacio. Lei medita un po', poi mi domanda: «Papà, perché allora abbiamo le unghie?» In una lettera a un amico, Leslie Stephen, il padre di Virginia, tratteggia il carattere della figlia con molta pazienza e amore. E pazienza ci vuole in casa Steven, perché i quattro fratelli nella nursery non sono gli unici figli della coppia. Leslie e Julia erano entrambi sposati e con prole, prima di incontrarsi e formare una nuova famiglia. Julia Jackson è una vedova con tre figli, Stella, George e Gerald, mentre Leslie, anche lui vedovo, ha una figlia, Laura, e fin da subito ci si rende conto che è ritardata. È quindi una scelta molto coraggiosa quando questa coppia di mezz'età, con al loro attivo già quattro figli, di cui una dalla gestione molto faticosa, decide di mettere al mondo altri bambini. Il segno di un amore intensissimo e che, nonostante tutti i figli, rimane sempre al centro della relazione. Ma la cosa interessante è che il matrimonio fra Leslie e Julia unisce anche due famiglie con temperamenti molto diversi, gli Steven e i Jackson. I primi sono una dinastia di avvocati, gente pratica, attaccata ai fatti, amante del ragionamento, sicura di sé, coraggiosa e moralmente integra. Molti degli avi Steven sono scrittori, con il gusto per una lingua chiara e scorrevole. Julia Jackson, invece, viene da una stirpe forse socialmente più elevata di quella degli Steven, grazie a un bisavolo che era un gentiluomo francese al seguito di Maria Antonietta, così al seguito della regina da considerare più prudente inviarlo nelle colonie francesi in India, dove si sposa e ha tre figlie. Una di queste si unisce con un gentiluomo inglese, fascinoso quanto dissoluto, che la lascia presto vedova e senza un penny, ma con delle figlie molto belle. Tutte fecero matrimoni brillanti, e di matrimonio in matrimonio, di madre in figlia, quando arriviamo a Julia Jackson troviamo al suo attivo una zia duchessa e un'altra regina di un piccolo regno di intellettuali del calibro del poeta Tennyson o dello scrittore Thackeray, l'autore della Fiera delle Vanità, un'aristocrazia dell'ingegno, colta, spiritosa. Ma oltre agli incroci con il sangue blu, la famiglia della madre di Virginia ha bellezza, amore per la poesia, per l'aspetto sentimentale della vita e, nelle sue manifestazioni più negative, una certa morbosa attrazione per la morte e per il dramma. Virginia ha ben presto la netta sensazione di essere il vaso che si è riempito delle caratteristiche di entrambe le famiglie. Buonsenso e sensibilità, prosa e poesia, che si rivelano in uno dei suoi primi bigliettini scritto per il padrino, il poeta americano James Russell Lowell, per un certo periodo ambasciatore a Londra e frequentatore di casa Steven. Mio caro padrino, sei stato negli Adirondacks e hai visto un mucchio di animali selvatici e di uccelli nel loro nido. Sei cattivo a non venire qui. Arrivederci, tua affezionata Virginia. Tutto sommato, la vita in casa Steven prosegue per anni tranquilla, con le scale da percorrere avanti e indietro per i sette piani su cui si snoda la vita dei ragazzi, dei genitori e delle persone di servizio. Le passeggiate al parco, le lezioni che Vanessa e Virginia ricevono a casa, le visite degli amici e le estati passate al mare, a St. Ives in Cornovaglia, il luogo più amato dai ragazzi. Tutto perfetto, fino a quando nel giro di pochi anni tutto sembra crollare. Dapprima muore Julia, l'amatissima madre, poi Stella, la sorellastra maggiore che ha preso il posto della madre nell'accudimento dei fratelli più piccoli, e soprattutto di Leslie, prostrato nell'animo dalla morte dell'amatissima moglie. Infine, proprio Leslie, incapace di reagire alle disgrazie abbattutesi sulla sua famiglia, muore nel 1904. È troppo, e così anche per Virginia si apre il baratro. Dopo la morte di Stella, Virginia sperimenta il primo dei crolli nervosi che la perseguiteranno per il resto della sua vita. Ma è dopo la morte del padre che Virginia tenta per la prima volta il suicidio, anche se in modo maldestro e poco convinto. Nella sua testa dilaniata dalle emicranie, strane voci si rincorrono che la spingono a commettere follie, a digiunare. Saggiamente Vanessa decide di vendere le case di Hyde Park Gate e chiudere con tutto il dolore che ha segnato l'abitazione. Così, con i fratelli, nel 1904 si trasferisce al 46 di Gordon Square, nel quartiere di Bloomsbury. È davvero l'ideale sistemare una casa quando si è tutti pressappoco della stessa età. Rende tutto più facile e tutte le difficoltà di conciliare esigenze contrastanti e di diverse generazioni vengono risolte. Vanessa descrive perfettamente il genere di casa che riesce a mettere su per sé e i suoi fratelli. Una casa gradevole e spaziosa, dove finalmente le convenzioni possono venir dimenticate, così come le persone noiose e le serate formali. Toby, il fratello maggiore che ormai studia a Cambridge, porta ogni tanto i suoi amici dell'università e il clima informale è talmente gradevole che in breve tempo la casa si trasforma in un punto di incontro abituale per gente come Clive Bell, Lytton Strachey e Leonard Woolfe. La nascita del gruppo di Bloomsbury, come diventa poi famoso il settimanale incontro del giovedì fra i fratelli Stephen e i loro amici, avviene così, naturalmente, senza alcuna forzatura, e culmina con due eventi fondamentali: la proposta di matrimonio di Clive Bell a Vanessa e la morte di Toby per febbre tifoidea nel 1906. Con il matrimonio di Vanessa e la morte di Toby, Virginia è di nuovo sola e senza punti di riferimento. Va a vivere con il fratello minore Adrian, ma le mancano i fratelli grandi. Tutti le dicono che dovrebbe sposarsi, ma con chi? L'unico con cui lei si trova veramente bene è Lytton Strachey, il quale però è apertamente omosessuale, quindi l'unione è impossibile. La loro è un'amicizia profonda che proseguirà per tutta la vita, ma non può sfociare in un matrimonio. Così l'esistenza di Virginia prosegue timidamente fino al rientro da Ceylon di Leonard Woolfe, che anni prima si è trasferito nella colonia inglese per lavoro. Leonard è forse il meno brillante e dotato del gruppo di Bloomsbury, ma quando dopo qualche tempo si propone a Virginia, lei farà la scelta più saggia della sua vita, decidendo di sposarlo. Mia cara Violet, ho una confessione da farti. Sposerò Leonard Woolfe. È un ebreo squattrinato. Sono più felice di quanto chiunque abbia mai ritenuto possibile. Però voglio a tutti i costi che piaccia anche a te. Con queste parole all'amica Violet Dickinson, Virginia annuncia il suo fidanzamento con Leonard, che sposa nel 1912 a 30 anni. Il matrimonio si rivela un'unione piena di amore e di sostegno in tutti gli anni a venire, che culmina con la fondazione di una casa editrice, la Hogarth Press. L'unione di Leonard e Virginia è soprattutto di stampo intellettuale. Leonard si rende subito conto dell'incredibile talento della moglie e per tutta la vita la sostiene nella sua scelta di fare della scrittura la sua vita. Grazie a Leonard, Virginia riesce a completare il primo dei suoi romanzi, La crociera, nel 1915. Nel 1920 esce Notte e giorno e nel 1922 La stanza di Jacob, che la rende improvvisamente famosa. È dunque una scrittrice importante e conosciuta che Vita Sackville-West incontra una sera di dicembre del 1922. In realtà Vita ne è perfettamente a conoscenza, anzi ammira Virginia e ambisce a conoscerla. Ma all'inizio gli incontri sono infrequenti, sporadici. Solo nel 1925 le due coppie, i Nicholson e i Woolfe, iniziano a vedersi più frequentemente e Virginia decide che Vita le piace. Mi piace. E mi piace stare con lei e col suo splendore. Brilla nella bottega del droghiere di Sevenoaks, radiosa come la fiamma di una candela, e incede con passo maestoso sulle sue gambe simili ad alberi di faggio. Lei, luminosamente rossa, un grappolo d'uva, una perla sospesa. Questo è il segreto del fascino, immagino. Da allora e per 20 anni la corrispondenza fra le due donne descrive una relazione fatta di amore e di scrittura, e spesso nelle loro lettere i consigli letterari si mischiano alle parole tenere. L'amore non è improvviso, piuttosto nasce lentamente. La sfrontatezza di Vita mal si confà con il carattere timido e inesperto di Virginia, e il senso di pericolo che avverte la scrittrice va anche a braccetto con lo snobismo intellettuale di Virginia, che non riconosce a Vita una vera capacità artistica. Ha tutta la disinvolta grazia dell'aristocrazia, ma priva del genio dell'artista. Per Virginia, la cui vita è consacrata e letteralmente assorbita dalla scrittura, Vita è troppo salottiera, troppo presa da figli, marito, avventure passionali e viaggi per essere ai suoi occhi una vera scrittrice. E questo Vita in fondo lo sa, e il saperlo l'addolora. Ma con generosità riconosce a Virginia la sua superiorità, così come sa di essere, sin dall'inizio della loro amicizia, una sorta di topo di laboratorio per Virginia, che la osserva come osserva tutti gli altri che la circondano, come materiale buono per i suoi libri. Anche se di questo l'accusa in una lettera. Consideralo, se vuoi, materiale di scrittura, come credo che tu consideri tutto, compresi i rapporti umani. Oh sì, tu ami la gente con il cervello più che con il cuore. Naturalmente devono esserci delle eccezioni. Col passare del tempo, però, seppur fra mille difficoltà, la freddezza di Virginia, l'impetuosità di Vita e due mariti a loro modo molto amati, la relazione fra le due donne inizia e un affascinante epistolario prende vita. Adesso mi dico, avrò la mia festa. Scrivere a Vita. circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping. Destini incrociati. Virginia Woolf e Vita Sackville-West, due donne inglesi, due scrittrici, si incontrano nell'ambito intellettuale brillante del circolo di Bloomsbury. Una è geniale, timida, segnata dalla malattia nervosa. L'altra è un'aristocratica eccentrica, avventurosa e assetata di libertà. Dal loro incontro nasce un amore tenero e destinato a durare sotto varie forme per quasi 20 anni. È un libro, Orlando, scritto da Virginia Woolf e dedicato a Vita, la storia di un personaggio che contiene in sé gli attributi dell'uomo e della donna, essere perfetto e anomalo, forte e materno, imprevedibile e coraggioso, come agli occhi di Virginia è Vita. Ieri mattina ero disperata, non riuscivo a spremere una parola. Alla fine ho scritto quasi automaticamente sul foglio bianco Orlando, una biografia. Appena fatto questo, il mio corpo è stato invaso dall'estasi, la mia mente da idee. Supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te e sulla sensualità della tua carne e sulle lusinghe della tua mente. Così scrive Virginia quando l'idea del libro la colpisce. Il risultato è un libro lieve e delizioso, considerato una lunga e sensibile dichiarazione d'amore, profondo nella sua capacità di cogliere il vero animo di Vita e al tempo stesso rivelatore della passione di Virginia per questa donna dalle lunghe gambe che tanto colpirono la sua attenzione al loro primo incontro. Per certi versi la scrittrice mitizza la figura di Vita, ma l'occhio acuto della donna abituata a scavare nell'animo umano non sfugge anche che dietro allo slancio organizzativo da gran signora e l'eccentricità, Vita mantiene un nocciolo timido e insicuro, quello della vita bambina, continuamente destabilizzata dall'amore imprevedibile ed egoista della madre. Ma soprattutto Virginia vede in Vita la donna sensuale che le fa conoscere l'amore passionale. Il matrimonio con Leonard, per quanto sia fonte di felicità e di sicurezza, non riesce a superare le grandi difficoltà fisiche che prova. Timida di natura e in più traumatizzata dalle moleste attenzioni del fratellastro durante l'adolescenza, Virginia si ritrae nel rapporto fisico, ma non con Vita. Con Vita, Virginia conosce l'accoglienza, il morbido abbraccio, l'esperienza che l'aiuta ad aprirsi, la protezione e di conseguenza l'amore. Sì, mi manchi, mi manchi. Non oso dilungarmi perché dirai che non sono forte. E tu sai che questa è una scemenza bella e buona, mia cara Vita. Dopotutto, che cos'è una frase adorabile? Una frase che ha assorbito tutta la verità che poteva starci. Mentre le loro vite si svolgono lentamente nel corso degli anni, le due donne rimangono sempre in contatto. Virginia continua a scrivere i suoi libri. Vita, nel 1926, segue il marito in Persia, dove vi rimane per qualche mese e sulla cui esperienza scrive il libro di memorie Passaggio a Teheran, che inizia con una memorabile premessa. Viaggiare è il più personale dei piaceri. Nel frattempo Virginia continua a scrivere. Escono La signora Dalloway e Gita Alfaro e nel frattempo l'attività della casa editrice Hogarth Press continua. I coniugi Woolf pubblicano, come è naturale, i romanzi dei loro amici più cari. T.S. Eliot, Catherine Mansfield, Lytton Strachey, E.M. Forster. Il gruppo di Bloomsbury continua a essere il substrato caldo e avvincente sul quale la vita di Virginia prolifica. A questo mondo si aggiungono le visite a vita. Dopo la separazione traumatica da Noel, il fiavesco castello di famiglia che la legge salica abbracciata dal padre non le aveva permesso di ereditare, dopo molto peregrinare, la Sackville West trova finalmente una nuova proprietà da acquistare e rendere casa. Sissinghurst è un castello semidiroccato quando i Nicholson ci capitano davanti per caso, ma per vita è amore a prima vista. Con i proventi del suo libro di maggior successo, La signora scostumata, uscito nel 1930 e immediatamente venduto in migliaia di copie, compra la proprietà che prevede un vasto campo intorno alla casa e con energia e caparbietà trasforma il luogo in un incanto e il giardino in un tesoro che ancora adesso che il figlio Nigel ha trasformato la proprietà in un fondo nazionale, viene visitato da migliaia di persone tutto l'anno. E dunque, fra le rose e le spalliere di Giacinto, che Virginia e Vita si incontrano, passeggiano, parlano di letteratura, si sostengono e si abbracciano. Quando Virginia va a trovare Vita a Sissinghurst, si sente felice. Per un certo periodo la vita per Virginia è dunque semplice, lineare, ricca. Leonard a casa che l'aspetta amorevole e fuori Vita da cui farsi prendere in un turbine di allegria e divertimento, eccentricità e passione, amore e cura materna. Sono anni molto fruttuosi per la scrittrice. Ma il suo male non è sparito. Nonostante le amorevoli cure di Leonard e l'allegria dell'amicizia con Vita, col passare degli anni Virginia sente la presa della follia. Nel 1941, in una mattina di marzo in cui Leonard è fuori, Virginia scrive un biglietto al marito e poi esce di casa. Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti e questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me e incredibilmente buono. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. Virginia. Dal cottage di campagna al torrente c'è solo una breve passeggiata. Nel tragitto Virginia raccoglie dei sassi che ripone con cura nelle ampie tasche della sua giacca. E quando arriva sul ciglio del torrente non smette di camminare e continua, passo dopo passo, nell'acqua gelida con il peso dei sassi che le impedisce di nuotare, nonostante sia una brava nuotatrice. Il suo corpo viene ritrovato qualche giorno dopo e ricomposto teneramente da Leonard. La notizia della morte di Virginia coglie Vita impreparata, anche se Vita intitola il suo libro forse più bello Ogni passione spenta. L'amicizia e la complicità erano proseguite fino all'ultimo. A Vita rimane il suo curioso ma duraturo matrimonio con Harold e i giardini di Sissinghurst. Una foto a colori la ritrae nei primissimi anni 60 sulle scale di casa, al fianco di uno dei suoi adorati cani, poco più dietro, discreta e sostanziale presenza, il marito. Lei è sempre in pantaloni e alti stivali, una giacca negligentemente allacciata con una sciarpa e i capelli incolti ormai grigi. Ma lo sguardo è sempre lo stesso, fermo, leggermente altezzoso e smarrito al tempo stesso. Uno sguardo che si era meritato la bellezza di un romanzo interamente dedicato a lei da parte della più grande scrittrice dell'epoca. E non è poco.